24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eccoci puntuali, le 6:31 minuti, ci siamo anche questa mattina e ci siamo svegliati, e anche questa è la notizia del giorno, potrebbe essere l'apertura di molti giornali, anche perché sono già arrivati i giornali e qui vedo delle aperture drammatiche, roba che io ho scritto su Twitter, vabbè, vado al cimitero, mi seppellisco da solo, vi faccio risparmiare anche dei soldi perché... C'è un clima di ottimismo che si respira nel paese. Allora, seguiteci su Twitter, Talino Milan, quello è il mio account, oppure 24 mattino ci trovate, siamo su Facebook, siamo con l'alpino Peter Bescapè in regia, col nostro Alessandro Longoni in redazione. Eccolo qua, Alessandro Longoni mi ha aiutato ad alzare la saracinesca del nostro bar. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Benissimo, il caffè a tutti quanti. Oggi lo offriamo, anzi lo offre Nicole Minetti. Lo offre e si sente già il caffè con la nostra moca, no? Che a rilento già macina. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno e ben svegliato. Eccoci qua. Buongiorno. Saluto anche Alessandro Giglioli, un ritorno, buongiorno Alessandro. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Giornalista dell'Espresso, tra l'altro Giglioli ha un blog molto seguito, che si chiama Piovono Rane. Allora, cosa è successo ieri? Vogliamo sentirlo? Beh, la contestazione ieri a Roma, è successo un casino, Gli operai dell'Alcoa. Questa era l'aggressione, insomma, faccia a faccia molto duro con il responsabile economico del PD, Stefano Fassina. Vai a lavorare, non sei con la cazzo di poltrona di merda! Ovviamente volano anche parole, è dovuto andar via, Sai come titola, Alessandro, oggi il manifesto? Piovono pietre, ecco, questo è. Ma guarda, c'ho tutti qui, i giornali sono arrivati. È gelata sulla ripresa, Pila meno 2,6% sul Sole 24 Ore. Per il Corriere, Alcoa spiragli dopo gli scontri. Repubblica, Alcoa esplode la rabbia operaia. Libero, del nostro Massimo De Manzoni, qui finisce male. L'Unità, Alcoa, disperazione lavoro. Il Fatto, Alcoa, scontri a Roma, il governo scherza col fuoco, La Stampa, dopo gli scontri l'attesa. Questo è il clima, Alessandro Giglioli e Massimo De Manzoni. Alessandro. Sì, comincio io. Beh, sì. Il clima, aveva detto Monti che la ripresa era dentro di noi e adesso mi sembra che sicuramente non è fuori da noi, ecco, non è fuori dalle nostre finestre, dai nostri uffici, dalle nostre aziende. Mi sembra che il dato sul PIL sia l'elemento veramente drammatico di ieri, e gli scontri, o meglio le tensioni che si sono viste a Roma, sono la loro proiezione in qualche modo. Ma che segnale è? Voglio dire, se Stefano Fassina è una persona moderata, una persona che si occupa di lavoro, una persona che ribadisce in un paio di interviste io continuerò ad andare davanti agli operai a parlare con loro, se anche lui viene accolto in un modo come abbiamo sentito. No, guarda, lì c'è un equivoco di fondo, a mio modestissimo avviso, che Fassina fa il poliziotto buono, no? La famosa storia del poliziotto cattivo, Fassina fa il poliziotto buono del PD. Cioè il PD è, con tutto il rispetto per il Democratico, il partito che come dire sostiene questo governo, vota il fiscal compact, vota tutte le norme volute di fatto da un governo tecnocratico di destra e poi manda il poliziotto buono in piazza a sostenere gli operai. Gli operai potranno essere, come dire, arrabbiati, ma stupidi non sono, hanno capito che era la farsa del poliziotto buono. Ah, beh, questa teoria, Massimo De Manzoni, che ne pensi di questa teoria di Giglioli? No, manda avanti il poliziotto buono, Fassina, in realtà il PD, gli operai non sono stupidi e sanno cosa c'è dietro le politiche anche sul mercato del lavoro del partito. Ma io forse allargherei addirittura il tiro, cioè il problema vero è che la credibilità dei politici in genere, non tanto di Fassina in particolare, che il PD non sia più da tempo il partito dei lavoratori, che sia piuttosto il partito dei più dei banchieri, insomma è noto, si dice, non è il primo episodio neanche che lo segnala, anche se io tenderei a scorporare un pochettino l'Aloa, il caso Aloa, da il resto di cui abbiamo accennato prima, in quanto il caso Aloa ha una sua specificità che arriva da lontano, è difficile attribuire responsabilità oggettive a Monti e al suo governo, che ne hanno tante altre e incredibilmente avanzano tra un consenso nazionale che non si riesce francamente a capire, se non in proiezione con la pochezza della politica, perché l'unica cosa secondo me che può giustificare ancora il consenso che c'è intorno a Monti è il fatto che dietro a Monti si intravedono cose ancora peggiori, tipo Fassina, ma non solo Fassina, tipo Vendola, tipo le macerie del PDL. Cioè un po' come la storia di Beppe Grillo, ha successo secondo l'analisi di alcuni, ha successo perché il panorama un po' sottrazione. Dopodiché l'Alcoa ha delle sue specificità che, se vuoi, poi magari ci accenniamo un attimino, perché cioè è una veramente una storia emblematica di mala politica italiana a tutti i livelli. Ma intanto, al di là di mala politica, ieri leggevo proprio su Libero, sono ricomparsi anche, perché li abbiamo sentiti che il tenore era di persone molto accalorate, sono stati scontri con la polizia eccetera, sono comparsi anche gli slogan Fornero al cimitero, ecco, queste cose pessime e vergognose che già in passato avevamo visto anche esibite, credo, su una maglietta, se non sbaglio, di qualche signora immortalata con Oliviero Di Liberto. Ma siamo anche a questo livello? Cioè c'è davvero il timore che, usiamole nel nostro bar questa parola, autunno caldo, possa diventare un qualcosa di bollente, Massimo? Sì, la situazione è questa. Nelle manifestazioni poi queste cose succedono, è successo di peggio anche ieri, hanno tirato anche delle bombe carta, ci sono dei feriti, e quindi sappiamo che poi la folla degenera molto spesso, l'esasperazione porta a questo. Come accennavo prima, la meraviglia è che fino adesso ci siano stati pochi scontri di piazza con una situazione come quella italiana. Ma pare che adesso il Viminale voglia fare una task force proprio per vedere caso per caso le situazioni che potrebbero essere difficili. Intanto io, visto che siamo al bar, mi è arrivata anche la Gazzetta dello Sport, vi vorrei chiedere questo: che squadra ti fate di calcio, se seguite, se siete appassionati? Alessandro, che squadra tifi? Io sono interista da quando sono nato. Vabbè, sbattetelo fuori dal bar. No, vabbè, ti teniamo comunque. Massimo, tu che squadra tieni? Ma io sono uno che divide molto poco normalmente queste cose, perché tifo il mio piccolo Chievo, non do fastidio a nessuno. No, vabbè, allora, perché oggi la Gazzetta dello Sport, uno dice non si lega al tema Alcoa degli operai, no, si lega molto, alla faccia della crisi c'è l'elenco di tutti gli stipendi di tutti i calciatori di Serie A. Allora, in nome dell'Inter di Alessandro Giglioli ti faccio sapere che Snyder guadagna 6 milioni di euro l'anno, Milito 4,5, Cambiasso 4, Cassano, che vi sfascia pure lo spogliatoio nel senso umano dei rapporti, 2,7 milioni, così Stankovic, Zanetti, Palacio. Poi vuoi sapere qualcuno? No, vuoi sapere qualcuno? Io posso dirti una cosa? Sì, posso aggiungere una cosa? Sì. Hai fatto benissimo a portare il discorso su questo, perché si collega con i terribili slogan che hai detto prima. Perché? Perché tu parli di calciatori, io preferisco parlare di amministratori delegati. 50 anni fa, 40 anni fa, Valletta, l'amministratore delegato della Fiat, guadagnava 30 volte un suo operaio. Oggi gli amministratori delegati, a cominciare da quello della Fiat, guadagnano 300 volte rispetto al loro operaio. E anche questa, allora, forbice. Cazzo, per carità, io sono pacifista, sono non violento. Ma se qualcuno si arrabbia, se qualcuno usa slogan cattivi, forse c'è anche una correlazione con questa evoluzione che ha avuto la società italiana. Che dici? Cioè una forbice che si è allargata sempre più. Pochi guadagnano sempre più rispetto alle masse, ai tanti che guadagnano meno. No, su questo non so se è qualunquismo. Vabbè, se volete ci sono anche dei calciatori, non so, Buffon della Juventus, 6 milioni. Il Chievo Massimo, quello che guadagna di più è Pellissier, 800.000 euro. Poi c'è Paloschi, 600.000, e poi 450.000, 400.000. Cioè queste sono le cifre del Chievo. Ecco, è demagogia, qualunquismo prendersela con i calciatori, che peraltro guadagnano molto meno rispetto all'anno scorso. Si sono anche tagliati, sono stati tagliati vari ingaggi. Prima si guadagnava anche molto di più, Massimo. Ma guarda, cioè io su questa posizione, su questa cosa ho una posizione molto pragmatica, cioè il mercato che decide, i calciatori hanno guadagnato e guadagnano tanto, spesso in base ai risultati, e vale lo stesso per i manager. Sì, però quello ecco, che ci dice io non mi scandalizzo, non ti io scandalizzo no. Per l'entità dello stipendio di un manager o di un calciatore, però mi scandalizzo se un manager prende una barca di quattrini e fa andare male l'azienda, quindi male gli azionisti e licenziare gli operai. Questo è uno scandalo. Beh, è successo anche a livello pubblico, non solo a livello privato, è successo anche a livello pubblico. Esattamente. E mi scandalizzo altrettanto se abbiamo degli stipendi per calciatori che non li meritano, o per un fenomeno come quello del calcio italiano che è in netto declino. E come documentiamo poi oggi su Libero, abbiamo gli stadi vuoti. Allora pagare tutta questa gente, tutti quei soldi per avere un ritorno che non c'è e per poi avere magari gli scandali delle scommesse, questi arrotondano anche. Cioè. Sì, però allora, credo che Alessandro Giglioli abbia introdotto proprio un discorso del posso usarlo, non è certo quello che anima te, ma potrebbe animare qualcuno, dell'odio sociale, cioè potrebbe tramutarsi in questo, in un'invidia, quella che poteva essere un'invidia o comunque il rispetto dei ruoli che degenera in una situazione veramente di contrapposizioni di classe sociali. Sì, non con i calciatori, normalmente questo con i calciatori, questo, perché poi gli operai del COI sono anche quelli che magari vanno allo stadio e hanno l'unico svago nell'andare allo stadio a fare il loro campione, per cui l'odio sociale nei confronti di certe figure non c'è mai stato più facile nei confronti dei manager oggettivamente. Ah, questo sì, Alessandro, però c'è questo rischio, Alessandro Giglioli. Ma vedi, io credo che negli anni 70 la lotta di classe la facevano i ceti meno abbienti, la facevano gli operai nei confronti dei capitalisti. Da quando la situazione si è ribaltata anche in termini di rapporti di forza, per tanti motivi che qui non è il caso di ricapitolare: la globalizzazione, la fine del muro di Berlino, internet e quindi tutto quello che l'economia globale, eccetera. La lotta di classe oggi la stanno facendo i ceti più abbienti nei confronti dei ceti meno abbienti. Infatti, la forbice sociale si sta, come dicevi tu, ampliando. Quello che non si capisce, io non ne faccio una questione soltanto di tipo etico, sia ben chiaro, ne faccio una questione di tipo pragmatico, e qui contesto un po' quello che ha detto il mio interlocutore. Cioè, il problema è che gli economisti hanno provato come in una condizione di pace sociale, in una condizione di stabilità, in una condizione anche di maggiore equità, quindi l'economia va meglio. Cioè le tensioni sociali, l'eccesso di forbice sociale è un grossissimo ostacolo alla famosa ripresa. È questo che non si capisce, questo è il punto di partenza. Ora, il problema vero è che tutte le alleanze, per entrare nella politica politicante, tutte le alleanze di governo, compresa quella cosiddetta di centrosinistra che sta ammannendoci Bersani, non parte da questo presupposto, cioè che la giustizia sociale è una maggiore giustizia sociale, una maggiore equità, una riduzione della forbice sociale è una delle condizioni, così come l'anticorruzione, così come la lotta all'evasione, è una delle condizioni di base per la ripresa. Senza una maggiore equità non ci sarà ripresa, e quindi l'odio sociale è una conseguenza di questo. Fornero al cimitero a me non piace, io sono stato è terribile. Però non è che capisco che durante queste manifestazioni, cioè non è che bisogna fare come dire le educande, ci sono degli slogan, ma Fornero al cimitero, cioè, vuol dire una cosa ben chiara, non equivocabile, un'unica cosa, cioè Fornero al cimitero. Capisco che la rima baciata possa attirare, ma vuol dire solo un'unica cosa, cioè che il ministro del welfare deve andare al cimitero. Questo non va bene, si può capire tutto, si può accettare tutte quelle che sono le contestazioni, ma insomma uno slogan del genere è uno slogan di una gravità assoluta. Comunque, per andare alle informazioni sul traffico, ve li ribadisco alla faccia della crisi, se volete così iniziare la giornata, magari il caffè vi va di traverso, non lo so. I più pagati in Serie A sono Buffon, De Rossi e Schneider con 6 milioni di euro l'anno, davanti a Totti della Roma con 5 milioni, Cavani e Milito con 4,5 e poi a 4 milioni Cambiasso, Mexès, Robinho e Pato. Pato in medici li spenderà. Beh, ne prenderà 4, ne spenderà 3,5 in medici, più o meno. Ah no, ma saranno gratuiti al Milan. Io invito a constatare che ripresa, se riflettiamo un attimo, è dentro di noi ed è una cosa che adesso è alla portata del nostro paese e credo anche che arriverà presto. È dentro di noi, l'ha detto. Nel 2013 pare che possa arrivare. Siamo ancora con Alessandro Giglioli dell'Espresso e con il suo blog Piovono Rane. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Vi vorrei introdurre un argomento che ha un nome e cognome, ancora oggi sui giornali. Antonio Ingroia. Allora, magistrato Ingroia, chi è che sorride? Chi è che ha il nome? Oh, stai, chi sei? Massimo, stai scappando? Temi le manette, no? Hai qualcosa da nascondere da Ingroia? Io per fortuna no. No, perché guarda che... Il problema rimane quello che diceva quel tale famoso, no? Se ti accusano di aver violentato la Madonnina, scappa in Svizzera, perché... No, non l'ho capita, ripetimi che... Il detto era: se ti accusano di aver violentato la Madonnina del Duomo di Milano, tu intanto scappi in Svizzera. Fiducia nella giustizia. Allora, la questione è questa: è intervenuto l'ANM è il sindacato dei magistrati, e basta iniziative politiche, basta dichiarazioni politiche, perché Antonio Ingroia è andato alla festa del Fatto Quotidiano e ha invitato in un discorso più ampio, oggi ovviamente fa altre interviste a Repubblica, nel quale dice: legittimo la mia possibilità, il mio dovere di parlare da cittadino, ha invitato a cambiare la classe dirigente. E allora questo è come dire, come fa un magistrato che per suo compito deve rimanere imparziale a invitare a cambiare la classe dirigente, cioè la classe politica del paese. Allora io chiedo questo, Alessandro Giglioli, è normale che un paese, non è che in tutti i bar d'Italia si parli di Antonio Ingroia, ma che comunque sui giornali ogni giorno ci sia il dibattito sul ruolo, su quello che fa un magistrato, che sia Antonio Ingroia, domani potrebbe essere un altro, cioè è normale tutto questo o siamo un paese impazzito? No, vabbè, siamo un paese impazzito per tanti altri motivi, secondo me. E io non conosco personalmente Ingroia e non sono in grado di dire se e quanto la sua attività sia finalizzata a una battaglia civile rispettabile o a una, come dire, personale ambizione del signor Ingroia. Io questo non lo so, leggo le cose che sono sui giornali, non lo conosco. Quello che posso dire però è che per quanto noi siamo tutti legati all'idea di un magistrato che parli soltanto attraverso i suoi atti, che è rispettabile soltanto attraverso quello che scrive, siamo all'interno di un sistema mediatico forte. Io mi ricordo che negli anni 90 facevo questo mestiere in cronaca a Milano e c'era un magistrato che si occupava di casi di corruzione dei politici a Milano, nella Milano sotto la cappa, se posso dire, un po' mafiosa dei socialisti dell'epoca. E questo magistrato... Volano parole leggere, come sentite qui al bar. Io ero a Milano negli anni 80 mi ricordo bene che non potevi neanche ambire a un posto di lavoro se non avevi la tessera del PSI o di CL. E che ti ha detto questo magistrato? Comunque questo magistrato mi ha spiegato, e io sono figlio di un avvocato che mi ha sempre detto che i giudici devono star zitti e parlare solo attraverso le loro indagini, le loro atti, eccetera. E quindi avevo questa convinzione. Questo magistrato mi ha spiegato che in un sistema aveva ragione, perché poi è nata Mani Pulite, in un sistema dell'informazione controllato, come era di fatto controllato, proprio da coloro sui quali lui indagava, se non faceva delle battaglie civili, se non si esponeva, se non cercava in qualche modo l'occasione mediatica per esporre le sue ragioni, le sue indagini sarebbero state isolate, lui sarebbe stato comunque strozzato metaforicamente. Non è neanche una bella immagine, quindi, anche questa, cioè il dovere utilizzare, il dovere apparire, altrimenti il suo lavoro non veniva... Aveva bisogno dei giornali e dei giornalisti per portare avanti le sue indagini, grazie a questa sua strategia, poi anche grazie a questa strategia, poi dopo è arrivata Mani Pulite, perché non ci dimentichiamo che indagini sui socialisti ne avevano fatte tante anche prima, ma come dire, il clima non era stato favorevole alla loro uno spaccato. Massimo De Manzoni, è un po' quello che per trasposizione si sta vivendo anche con Ingroia, cioè il bisogno secondo te di apparire, perché altrimenti le sue indagini, le indagini della Procura di Palermo rischiano di finire nel dimenticatoio? Guarda, le indagini della Procura di Palermo rischiano di finire nel dimenticatoio perché non arrivano a sentenze, più che altro normalmente sono costruzioni, e le costruzioni vivono molto più sui giornali che nelle aule di giustizia, questo è il problema, e quindi certo che bisogna alimentarle così se si vuole alimentarle. L'immagine di un magistrato che partecipa a feste di partito, fa dichiarazioni politiche di questo tipo e poi fa indagini su politici non fa bene, e questo è evidente, ed è tanto evidente che è intervenuta persino l'ANM. Ma di recente di un organo che prima che di usare una parola contro un magistrato, la misura è colma, dice, se è intervenuta. Adesso io capisco tutto, capisco anche che ci sia anche una cappa dell'informazione, l'ho denunciata prima nei confronti di Monti, figurati, ma adesso pensare che un magistrato possa essere come Ingroia fa venire i brividi, ma non perché Ingroia sia antipatico, ma perché, cioè, come si fa a indagare sulla politica pronunciandosi di parte così della politica e pretendere anche che dopo tu spogliarsi della giacchetta che hai indossato fino a un attimo prima al comizio e dire vabbè, ma adesso sto indagando, quindi adesso sono imparziale. Lui dice che si può, se si è un buon magistrato si può. Comunque grazie ad Alessandro Giglioli, lo ritroveremo, e anche Massimo De Manzoni, se avete voglia di essere sbrandati ancora una volta. E ricordate, cari ascoltatori, non chiedere mai a Ciriaco De Mita perché ha la scorta. Io non l'ho ancora capito, il presidente De Mita, perché lei ha la scorta alla sua età? Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Arrivederci. Cacci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Io invito a constatare che ripresa, se riflettiamo un attimo, è dentro di noi ed è una cosa che adesso è alla portata del nostro paese e credo anche che arriverà presto. Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista, chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e fuori che state ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà che a te. Urban Forum. Le 7:20 minuti, eccoci qui ancora in diretta, cari ascoltatori, in diretta, per la verità ci siamo dalle 6:30, ormai abituati al nuovo orario. Ci potete seguire su Twitter @24mattino, potete scriverci anche messaggi al 349-238-6666. Vi annuncio che tra un'ora esatta, anzi prima, alle 8:15, avremo ospite l'uomo politico del momento, Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, nostro ospite. Poi parleremo di conti delle regioni. Alle 8:30 avremo anche qui un gradito ritorno. Vi ricordate l'ex assessore in Sicilia Andrea Vecchio, che nominato assessore da Lombardo criticava senza mezzi termini tutti gli sprechi della regione Sicilia? È stato defenestrato, è stato mandato via da assessore, tra l'altro a poco più di un mese dalle elezioni in Sicilia, e ha voglia forse di raccontare ancora qualcosa di come i soldi pubblici vengono spesi nei calderoni delle regioni italiane. Ne parleremo più avanti. Ora andiamo, come al solito, a cominciare dalla lettura dei quotidiani che trovate in edicola. È martedì 11 settembre, intanto una carrellata di titoli. Il Sole 24 Ore oggi lo trovate in edicola a 2 euro perché c'è allegato il libro Il Condominio, che non è un trattato sul pugilato, ma è tutto ciò che dovete sapere. Ed è bene sapere per uno dei luoghi più misteriosi, sacri e anche densi di conflittualità. Il condominio, tutto quello che dovete sapere su questo microcosmo che ci segue tutti i giorni e nel quale siamo ben inseriti, tutti noi più o meno, molti italiani. Allora, dicevamo, il Sole 24 Ore, gelata sulla ripresa, PIL a meno 2,6%, questo è il titolo di apertura, e per il resto è una carrellata di titoli davvero sulla situazione Alcoa, ieri gli scontri a Roma, il Corriere della Sera, Alcoa spiragli dopo gli scontri, per Repubblica Alcoa esplode la rabbia operaia, il Messaggero Alcoa scontri a Roma, la Stampa Alcoa dopo gli scontri l'attesa, Unità Alcoa disperazione lavoro, Il Manifesto, piovono pietre, Libero, qui finisce male, PIL meno 2,6%, consumi meno 3,5%. Il Fatto Quotidiano, Alcoa, scontri a Roma, il governo scherza col fuoco. Avvenire, Alcoa, luci nella tempesta, e più o meno è unanime l'apertura. Solo il Giornale apre su perché Berlusconi tace, viene avanti Bersani, quindi un'apertura prettamente politica. Oh, ieri, prima nel nostro bar di Radio 24 abbiamo già visto quella che è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Dici, ma come apre sulla Gazzetta dello Sport? È molto attuale, cari ascoltatori, perché voi che vi state recando ai vostri posti di lavoro, magari avete acceso la radio adesso, sappiate che la Gazzetta dello Sport fa un'inchiesta con tutti gli ingaggi della Serie A. Quanto guadagnano i vostri beniamini vestiti, immagino tutti di rosso nero, perché sarete tutti milanisti, questo certamente. Alla faccia della crisi, questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Beh, interessante, nonostante la dieta ovviamente che si sono date le squadre di calcio, molte hanno ridotto il monte ingaggio. Sappiate che le 20 squadre di A spendono circa 1 miliardo di euro in stipendi. Chi aumenta gli stipendi sono Juve, Roma e Lazio, mentre altre squadre sono ricorse a risparmio, però è un risparmio per modo di dire. Qualche esempio, che ne so, i campioni d'Italia della Juventus: Buffon guadagna 6 milioni di euro, è uno di quelli che guadagna di più insieme a De Rossi della Roma e Snyder dell'Inter, 6 milioni di euro netti l'anno. Poi c'è Totti della Roma, 5 milioni, davanti a Cavani e Milito con 4,5 milioni di euro del Napoli e dell'Inter. E poi a 4 milioni di euro ci sono Cambiasso dell'Inter e 3 del Milan, Mexes, Pato e Robinho, 4 milioni di euro. Questi sono gli stipendi più alti della Serie A, ma c'è, che ne so, squadre invece che pagano come il Catania al massimo 600.000 euro al giocatore più pagato, o addirittura sì, credo il Catania sia la squadra che paga di meno al giocatore che è più pagato della propria squadra. No, c'è il Pescara. Pescara, 400.000 euro, da 400.000 euro in giù. Quindi anche nella Serie A c'è chi guadagna 6 milioni di euro, chi 400.000 euro. Però la base, sappiate che il minimo sindacale è 80.000 euro. 80.000 euro. Beh, insomma, diciamo che trovate tutti gli stipendi, se volete, dei vostri calciatori preferiti, della vostra squadra preferita, così lo paragonate poi al vostro e andate serenamente a lavorare. Dopodiché vi voglio raccontare una vicenda che riguarda il mondo della scuola. È una vicenda di cronaca che, per la verità, si trascina da anni, ma è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione. Forse ve lo ricordate, un episodio del 2007 nel quale due studenti presero in giro un compagno di classe e per questo l'insegnante riprese i due studenti. Uno dei due chiese scusa, l'altro si rifiutò di chiedere scusa. Allora questo insegnante fece scrivere 100 volte a questo alunno che aveva preso in giro in maniera molto pesante un compagno di classe: sono un deficiente, 100 volte sul quaderno. Tralasciamo il fatto che questo ragazzino pare abbia scritto 100 volte sono un deficiente, scrivendolo senza i, deficiente, si scrive con la i e invece l'ha scritto senza i, quindi anche un po' ignorante. Ma al di là di questo, l'insegnante è stata condannata in via definitiva in Cassazione a 15 giorni di carcere. Carcere che non farà mai 15 giorni, potete immaginare. Tra l'altro è in pensione questa insegnante. Ma il tema riesplode sui giornali. Prof fa scrivere all'alunno sono un deficiente, 15 giorni di carcere. Questa è una pagina intera sul Giornale a pagina 16. Libero anche a pagina 20, ha offeso la dignità del bullo, prof condannata per un castigo. Repubblica, e da qui voglio leggere l'articolo di Alessandra Ziniti, la storia viene da Palermo, fece scrivere all'alunno sono deficiente, la Cassazione stop al bullismo dei prof. Avete capito? Il bullismo dei professori. Di bocconi amari pensava di averne ingoiati già abbastanza, ma ora, ormai in pensione da un anno, davanti alle motivazioni della sentenza di Cassazione che ha confermato la condanna a 15 giorni di carcere per aver punito l'atto di bullismo di un alunno facendogli scrivere 100 volte sul quaderno sono deficiente, Giuseppina Valido dice: non era questa la tutela che mi aspettavo dallo Stato. Dopo questa sentenza, qualunque insegnante sarà alla mercé del primo genitore infuriato. E poi mi chiedo che messaggio si dà ai ragazzi. E Repubblica riepiloga appunto questa vicenda del 2007 e nella seconda media due ragazzini impediscono l'accesso al bagno dei maschi a un compagno schernendolo così: tu non puoi entrare, sei gay, sei una femminuccia. Dei due bulli, dodicenni, uno chiede scusa, l'altro si rifiuta e la professoressa allora reagisce con durezza: scrivi 100 volte sul quaderno, sono deficiente. Una punizione che fa andare su tutte le furie il padre dell'alunno, che decide di denunciare l'insegnante. E la difesa della prof convince i giudici di primo grado, viene assolta ritenendo prevalente la tutela della vittima dell'atto di bullismo. La sentenza però viene poi ribaltata in appello e confermata in Cassazione, che motiva così questa condanna dell'insegnante. Gli insegnanti non possono rispondere con metodi prepotenti agli atteggiamenti di bullismo degli allievi, perché finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali, scolastici o sociali, sono decisi dai rapporti di forza o di potere. Inoltre, aggiunge la sesta sezione penale, costituisce abuso punibile anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute anche se è compiuto con una soggettiva intenzione educativa o di disciplina. Insomma, comunque la pensiate, a me piacerebbe tantissimo poter ospitare, avere ospite questa insegnante, magari domani, magari nei prossimi giorni, quando vuole, per raccontarci insomma questa vicenda e che ne pensa. Ha fatto scrivere "sono un deficiente" a un ragazzino di 12 anni 100 volte sul quaderno, è stata condannata a 15 giorni di carcere, sentenza definitiva. Tra l'altro domani iniziano le scuole in tutta Italia, le elementari, domani o dopodomani. Tutti i giornali aprono su quello che è successo a Roma ieri, dove gli operai dell'Alcoa che protestano contro la chiusura della fabbrica sono andati davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, dove si discute come affrontare questa crisi, e la situazione però è degenerata. Scontri con la polizia, anche una minacce verbali, anche rischiavano di tramutarsi in minacce fisiche al responsabile economico del Partito Democratico Stefano Fassina. E beh, tutti i giornali raccontano intanto come in realtà ci sia una trattativa che faccia intravedere degli spiragli positivi. Racconta per esempio Giorgio Pogliotti a pagina 2 del Sole 24 Ore: scontri a Roma, chiusura rinviata. Il ministro Passera ha detto: non è un caso impossibile, il governo è impegnato a trovare una soluzione. Infatti slitterà per il momento di un mese la chiusura, vale a dire il programma di spegnimento delle celle previsto inizialmente dall'azienda per il 15 ottobre, in modo da dare tempo a una delle due aziende interessate di ufficializzare una proposta che ridia un futuro all'impianto prima della chiusura definitiva che è prevista per il 31 dicembre. A breve sia la Clash, che ha inviato una manifestazione di interesse, sia la Glencore, che finora ha solo richiesto informazioni, saranno convocate al Ministero dello Sviluppo Economico per verificare l'avanzamento della trattativa. Racconta tra l'altro il Corriere della Sera, pagina 3, con Roberto Bagnoli, chi è Gary Clash, 63 anni, figlio di un boxer dell'Ohio, amico di vecchia data del più grande truffatore della storia, Bernard Madoff. Questo scritto dal Corriere certo non depone molto a suo favore. Colui che ha avanzato l'interesse come Clash per l'acquisto appunto dell'Alcoa, si è detto disponibile a aprire un negoziato con il fondo inglese guidato da Gary Clash. Ripeto, il profilo dato di questo magnate sul Corriere della Sera, pagina 3, 63 anni, figlio di un boxer, ma amico di vecchia data del più grande truffatore della storia, Bernard Madoff. Già in Italia in precedenza aveva cercato di rilevare qualche azienda, molti anni fa l'Olivetti, nel 2009 la raffineria di Stagno dell'Eni, ma si ritirò all'ultimo dalle trattative. Questo è l'interessamento del gruppo inglese Clash per Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera, pagina 3. Certo, quello che è successo ieri, ripeto, anche le spinte, le contestazioni, Stefano Fassina parla, due interviste, una la trovate sul Corriere della Sera, intervistato da Fabrizio Roncone al primo squillo alle 12.50, ha la voce un po' incrinata e dice: ci risentiamo dopo, ho appena avuto un problema, lo definisce così Fassina. E poi alle 16.45 finalmente parla, dice: guardi, io non ho avuto paura, naturalmente non è stato un bel momento, ma certo, come dice Bersani, ci sono forze che vogliono scaricare i costi dell'aggiustamento economico e sociale di cui l'Italia ha bisogno sulle spalle dei lavoratori, di chi è più debole. Beh, risponde Roncone, chiede a Fassina: il concetto di forze occulte è vago, mi faccia qualche nome. Non ci sono nomi, ci sono interessi, risponde Fassina, che poi più avanti in realtà fa non proprio dei nomi, ma circoscrive quelli che sarebbero gli interessi. Dice Fassina, vede le parole per esempio di Bersani sulla la decisione che spetta agli italiani di scegliere chi sarà a governare, sono state pronunciate il giorno dopo il convegno di Cernobbio, dove con una notevole caduta di stile un pezzo importante dell'elite economico-finanziaria di questo paese ha purtroppo dato la netta sensazione di considerare le elezioni un passaggio inutile. Tanto che Roncone dice: ecco, così cominciamo a essere meno vaghi, Fassina. Lo so, a loro avviso non c'è nulla da decidere, l'unica differenza l'unica direzione di marcia è quella prevalente in Europa e seguita con attenzione anche dal nostro governo. Io invece penso che per ridurre il debito sia necessario cambiare strada. Occorre puntare sull'economia reale, sul lavoro, il rilancio delle imprese, la redistribuzione del reddito. Insomma, non mi piace l'agenda Monti, dico che va modificata, anche perché faccio notare che l'anno prossimo il debito pubblico italiano, secondo le previsioni del Fondo Monetario, sarà più elevato di quello del 2011 a causa della recessione determinata da un rigore cieco. Così Fassina, mentre la CGIL, se su Repubblica, pagina 4, c'è questa notizia, Camusso è pronta alla mobilitazione e non si esclude, se le cose rimarranno così, anche uno sciopero e una grande mobilitazione per il lavoro fino allo sciopero generale in ottobre. Intanto sono spuntati dei cori vergognosi, perché va bene le contestazioni e tutto, ma giustamente Libero lo mette nell'articolo di Andrea Scaglia, pagina 10, guerriglia a Roma, e poi quel coro Fornero al cimitero che è rispuntato negli slogan di alcuni che evidentemente danno un peso alle parole poco significativo. Come dicevamo prima, le 7.30, capisco che e si capisce che può attirare il concetto di usare una rima baciata, Fornero al cimitero, ma Fornero al cimitero vuol dire un'unica cosa molto grave e non equivocabile. E a questo proposito è interessante ciò che Fiorenza Sarzanini scrive a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, vale a dire che il Viminale, il Ministero degli Interni, è abbastanza preoccupato, perché si cerca di capire ora quali potrebbero essere i nuovi focolai di crisi reale, vera, del mercato del lavoro, quindi di crisi concreta, che però potrebbero degenerare in situazioni come quelle di violenza anche manifestate ieri da alcuni a Roma. E infatti racconta Fiorenza Sarzanini, adesso al Viminale si ragiona sui segnali sottovalutati, per esempio quando nei giorni scorsi alcuni operai sono arrivati a mostrarsi in TV con i volti coperti dai passamontagna, un atteggiamento tipico delle frange più estreme della protesta di piazza, oppure degli ultras in assetto da sommossa, certamente non usuale per chi reclama il proprio posto di lavoro e chiede certezze sul futuro. Dunque è proprio al futuro di tutte le altre aziende che si guarda, a una crisi economica che rischia di trasformare il disagio sociale in un problema di ordine pubblico. Partirà subito il sottosegretario Carlo De Stefano in Sardegna, poi si sposterà in Piemonte. La sua missione, racconta Fiorenza Sarzanini, ha come obiettivo la pianificazione degli interventi sul territorio, ma anche la mappatura delle industrie, anche medio-piccole, a rischio chiusura, perché sono i possibili focolai di tensione. D'altronde, ripeto, a leggere i giornali c'è una depressione cosmica in tutti i titoli, l'ultima è quella del PIL, e d'altronde sono le notizie che vengono dal fronte economico. Il PIL è giù del 2,6% nel secondo trimestre. Tutti i dettagli li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore con Rossella Bocciarelli, che racconta come il secondo trimestre dell'anno è andato peggio del previsto. E l'Istat ha rivisto al ribasso la dinamica del PIL. Nel trimestre, ha comunicato l'Istituto di Statistica, la flessione è stata dello 0,8%. mentre rispetto al secondo trimestre del 2011 la caduta dell'attività produttiva è stata pari al 2,6%. Ecco, questi sono i dati. Io non lo so se come titola Libero in prima pagina qui finisce male, questo è il titolo di apertura, ma anche il Fatto Quotidiano, il governo scherza col fuoco, oppure il Manifesto, piovono pietre. Ecco, questi sono tre dei titoli di giornali orientati politicamente in maniera diversa, ma fanno capire che l'atteggiamento è questo qui. Intanto siamo alla vigilia, 12 settembre, di una pronuncia, di un pronunciamento molto importante che proviene dalla Germania, Corte Costituzionale della Germania, la Karlsruhe, dove i giudici tedeschi, i massimi giudici tedeschi, devono pronunciarsi sul fondo salva stati. È uno snodo cruciale per la tenuta dell'Eurozona, quel fondo salva stati votato e sottoscritto dagli stati, per i quali pende però un ricorso di alcuni tedeschi alla Corte Costituzionale tedesca. L'orientamento, secondo molti giornali e secondo anche Angela Merkel, che ieri ha detto il fondo salva stati è legittimo, questo è il mio parere, l'orientamento è che la Corte dica sì al fondo salva stati. Ma l'analisi interessante è di Alessandro Merli sul Sole 24 Ore, pagina 9, l'euro nelle mani di Karlsruhe, vale a dire la città dove ha sede la Corte Costituzionale. Perché con ogni probabilità, scrive Merli, la Corte deciderà di procedere con la sentenza domani, nonostante un ricorso per rinviarla presentato da alcune persone, ma dovrebbe invece dare il via libera alla firma della ratifica del fondo salva stati avvenuta prima dell'estate a larghissima maggioranza parlamentare. I rumors sono questi: il sì degli 8 giudici in toga rossa sarà molto probabilmente però condizionato alla richiesta di passaggi parlamentari per ogni decisione rilevante del fondo. Comunque l'orientamento è di pensare che ci sarà un sì a questo fondo salva stati. Intanto le tasse aumentano. Ebbene sì, aumentano, ma vi segnalo Attilio Befera, intervistato un'intera pagina del Corriere della Sera, pagina 7, intervistato da Mario Sensini. Così daremo la caccia ai grandi evasori, insiste Befera, che fa anche questo paragone. Ricordate il film La ricerca della felicità di Muccino, quello che ha avuto grandissimo successo con questa storia vera di un uomo che ha perso tutto e poi è riuscito a coronare il suo sogno, diventare anche un imprenditore di successo? Beh, racconta Befera, è tratto da una storia vera ed è un esempio dal punto di vista civico. Racconta di un evasore, Will Smith, che a un certo punto va in banca e trova il conto prosciugato perché c'era passata la Internal Revenue Service, vale a dire l'agenzia delle entrate americane. Avete capito? Cioè, un senso civico. Trova il conto prosciugato perché era passato, siccome era un evasore, l'agenzia delle entrate americane. Noi invece andiamo avanti a ganasce e ipoteche che servono solo a garantire il credito. Non so se con questo messaggio, insomma, Befera vuol dire ci sono paesi più aggressivi di noi. Cioè, avete capito cosa fanno in America? Ti vanno in banca e ti prosciugano il conto se sei un evasore. Noi invece ci limitiamo alle ganasce. E peraltro le ganasce sono diminuite, lo dicono i dati, dice Befera. Quest'anno, nei primi sei mesi, abbiamo fatto solo 22 blocchi amministrativi di veicoli contro i 188.000 dello stesso periodo dell'anno scorso. Ma com'è possibile? Cioè, 22 blocchi amministrativi. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati 188.000. O paghiamo tutti in maniera precisa o c'è qualcosa che non va. Questo è un dato abbastanza distorto, no? Una differenza abissale, da 22 quest'anno a 188.000 l'anno scorso. Così Befera sul Corriere. Il momento è adesso, questo è lo slogan anticipato dalla Stampa con Federico Geremicca in prima pagina e poi continua a pagina 10, che Matteo Renzi ha scelto per il suo tour che partirà dopodomani da Verona e andrà in tutta Italia per lanciare la campagna delle primarie. Matteo Renzi sarà nostro ospite alle 8:15. Adesso è il momento di cambiare, questo è un altro slogan, adesso è la parola chiave scritta su un fondo azzurro, cioè su un fondo, scritta in caratteri in colore azzurro. Non è facile graficamente da spiegare, dovreste vederla sulla Stampa. Matteo Renzi, tra l'altro, che ieri ha tuonato contro Veltroni, ha scritto è un bravo romanziere ma deve farsi da parte. Tra l'altro, curioso, domenica andrà a presentare proprio il libro di Veltroni, però vedremo come andrà a finire. La notizia più interessante su Matteo Renzi la scrive Repubblica, lo chiederemo ovviamente al sindaco di Firenze, la scrive Repubblica a pagina 9 con Roberto Mania, e c'entra Renzi Montezemolo. Perché? Perché Montezemolo pare che abbia criticato in maniera molto dura questa possibilità di essere coinvolto nel nuovo centro di Casini, quello che ha anche visto la comparsa sul palco di Emma Marcegaglia, che guarderebbe anche con certo interesse al ministro Passera. Beh, Montezemolo pare che l'ha definito così un fritto misto, una pesca a strascico, cioè un qualcosa per cercare di tirare dentro un po' tutti ma senza un grande costrutto. E allora perché questa critica? Secondo il retroscena di Repubblica, Roberto Mania, il patron della Ferrari è pronto a scendere in pista, la decisione la comunicherò a giorni, spera in Renzi. Ecco il legame, secondo Repubblica, tra Montezemolo e Renzi, è proprio questo. Secondo Mania, Roberto Mania, Luca Cordero di Montezemolo con Italia Futura pensa di potersi giocare la partita magari scommettendo sul superamento dell'attuale legge elettorale, oppure, ipotesi che gira negli ambienti del PD, presentandosi con Matteo Renzi. Perché se Renzi dovesse essere sconfitto da Bersani alle primarie, o le stesse primarie nel PD non dovessero proprio svolgersi, si pensa che il sindaco di Firenze possa far parte di una lista con Italia Futura. Vedremo, staremo a vedere. Sta di fatto che invece in tutto questo c'è l'immobilismo di Berlusconi. Io ve lo dico, abbiamo provato a convocare Flavio Briatore dal Kenya, ci ha risposto, ieri l'abbiamo chiamato via sms, gli ho detto Briatore può venire a raccontarci domani, ci ha risposto sono in Kenya, e lo sappiamo che è in Kenya, per l'appunto l'avevamo convocato per cercare di capire, visto che c'era Berlusconi, dicono qui c'è anche Berlusconi. A quel punto non ci ha più risposto. D'altronde Silvio Berlusconi in questo momento è nel silenzio. Silenzio che fa suscitare due reazioni diverse sui giornali che più lo seguono con attenzione. Il Giornale: perché Berlusconi tace? Con Vittorio Feltri che dice fa benissimo. La cosa migliore in questo momento è l'immobilismo. A sinistra si scannano, tra virgolette, si scontrano e quindi stiano fermi. Lascino che i big democratici si scannino tra loro, scrive Feltri. Qualche pezzo grosso potrebbe cadere nella polvere. E quindi Berlusconi fa benissimo. Libero invece dall'altra parte mette in prima pagina Silvio sveglia, muoviti, non lasciarci con Monti e Casini. Allora il mistero è perché Silvio Berlusconi non parla. Dall'altra parte invece, non so se avete seguito, ieri da Lilli Gruber è intervenuto Giovanni Favia, responsabile consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. Oggi fa un'intervista invece al Fatto Quotidiano, dice Casaleggio mi ha fatto terra bruciata. Casaleggio, vale a dire Gianroberto Casaleggio, considerato il guru di Beppe Grillo o il collaboratore di Beppe Grillo, come lo volete. La cosa più interessante però sul Movimento 5 Stelle è un retroscena con alcuni virgolettati di Erika Della Casa sul Corriere della Sera, come l'avrebbe presa questa vicenda Beppe Grillo. Beppe Grillo che si rilassa al mare, attenzione perché si sta preparando Beppe Grillo con un allenamento quotidiano a nuoto per nuotare e attraversare lo stretto di Messina a nuoto per il lancio della sua campagna elettorale in regione. Per ora la sua tenuta in mare è sui 2 chilometri, ma il problema sono le correnti ovviamente marine. Così si sta preparando Beppe Grillo al mare e avrebbe commentato così la vicenda Favia: nel movimento abbiamo questi 2 o 3 ragazzi che hanno fatto 2 mandati e non si possono più ripresentare, così sono entrati nel panico. E si è messo le mani al collo Beppe Grillo per simulare lo strozzamento. Li capisco, per carità, si sentono soffocare, erano disoccupati e per un po' di anni si sono trovati a prendere uno stipendio da 3.000 euro al mese a gestire un po' di potere. Adesso si sentono l'acqua alla gola perché devono lasciare. Così vanno in televisione, straparlano di democrazia. Il grano, cioè i soldi, e il poterino purtroppo sono un problema. Liberissimi di andarsene, se ne andranno in un partito, nel PD, nell'IDV, non so dove, scelta loro.

ecco, per le sue esternazioni. Guardi, mi faccia salutare insieme a lei Pierfrancesco De Robertis. Buongiorno, anche lui è ritorno a Radio 24. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. De Robertis lavora al Quotidiano Nazionale, responsabile della redazione romana. È uscito appena qualche giorno fa con un libro, La casta invisibile delle regioni, Rubbettino Edizione, editore, quindi la casta, gli sprechi delle regioni. Andrea Vecchio, che cos'è la cosa peggiore che ha visto dal di dentro di sprechi della regione Sicilia? Vecchio. Pronto? Sì. Sì, il libro di Ruberti si trova sulla mia scrivania, l'avevo già acquistato. Ah, ecco. E cos'è perché fa un'analisi molto approfondita, molto, molto chiara degli sprechi. E il problema è che occorre vedere le motivazioni di questi sprechi, da dove nascono e perché si mantengono e perché hanno grandissima difficoltà ad essere sradicati. Perché gli sprechi non sono altro che l'arma che l'attuale politica mediocre utilizza per conservare le proprie posizioni di potere. Perché, per esempio, in Sicilia ci sono circa 100.000 precari. Circa 100.000 precari. Tutti voti. Faccia lei una media di 4 voti a famiglia, oltre magari alle influenze, sono 400.000 voti. Li si mantiene precari così? Se questi precari dovessero stabilizzare, naturalmente è impossibile stabilizzarne 100.000, se ne potrebbero stabilizzare 1.000, forse 1.500, forse 2.000, e il resto, perché vede, è bene continuare ad alimentare speranze inappagabili, perché la gente non si rende conto, le persone che hanno bisogno di un posto di lavoro, di uno stipendio, si accontentano provvisoriamente anche di 600-800 euro perché permettono di vivere. Due persone precarie, magari con 800 euro a testa, si sposano. C'è gente precaria da 29 anni e questo è il grande dramma del meridione d'Italia, non è solo la Sicilia. Ma da qui lei dice, diciamo, partono un po', è la genesi di tutti gli sprechi, ma è vero che lei ha dichiarato, me lo dica, la Sicilia è un popolo di accattoni? Non vorrei che la mia dichiarazione fosse equivocata. La mentalità del meridionale d'Italia è una mentalità da accattone, perché tutti quanti abbiamo l'atteggiamento da suddito, non da cittadino, non abbiamo la consapevolezza dei nostri diritti, ma andiamo a chiedere favori, cortesie, concessioni al politico o al burocrate di turno. È la mentalità con la quale ci approcciamo alla maniera di vivere, alla maniera di lavorare. Intendevo dire questo. Certo. E quindi si è ricattabili quando il politico diciamo, vuole fare le proprie concessioni. Però mi faccia chiedere una cosa, Pierfrancesco De Robertis, ovviamente nel libro ci sono un'analisi di tutte le regioni. Andrea Vecchio è uno così, non so se hai capito, che è uno che è entrato nella giunta lombardo per dire, tra virgolette, sarò un Giuda e dirò tutto quello che non va bene. E l'ha fatto. È davvero una storia del grande spreco, quello delle regioni italiane, De Robertis. Ma le regioni, quella la tesi che sta alla base del libro, io infatti non ho fatto un libro sulla Sicilia, contro la Sicilia, contro la Campania, contro la Calabria, perché, come dire, sarebbe stato un po' troppo facile prendersela con gli sprechi che poi tutti un po' conosciamo. La tesi che sta alla base del libro è un po' quella che veniva detta prima, cioè le regioni servono alla classe politica, le regioni intesi sia come consigli regionali, sia come giunte, assessorati e tutto quello che sta intorno, alla classe politica locale e territoriale, che è il ventre molle della politica italiana, come una sorta di seconda grande maxi rata di finanziamento pubblico, cioè quello che viene a Roma concesso per, in base ai voti che si prendono, e c'è quello che territorialmente, questo flusso di denaro enorme che passa per alimentare la politica locale, per cui c'è una cifra, quanto è questo flusso di denaro? C'è anche una cifra che si può fare? I consigli regionali costano un miliardo circa, più di un miliardo. Tutti insieme, non è tutto uno spreco, una prebenda, no, perché poi non bisogna... Ecco, insomma, no, un costo, Però ci sono, voglio dire, tutti i posti che si distribuiscono per il difensore civico, il garante dell'infanzia, il garante dei detenuti, il Corecom, il garante, il consiglio delle autonomie locali, tutte piccole poltrone, che non sono poi piccole perché sono poltrone da 4, 5, 6 mila euro al mese a testa, sono le mille nomine nei CDA delle società partecipate delle regioni, alcune sono utili, anzi molte sono utili, però molte non hanno una ragione di essere in una regione, le regioni posseggono le terme, c'è qualcuna che ha i campi da golf, insomma, che senso ha mantenere chi ha l'ambasciata a Cuba? Chi ha l'ambasciata sì, a Cuba? Sì, ora quelle un po' le hanno ridotte dopo che si è stato, però anche lì c'è stata molta esagerazione, no? Il Lazio e altre quattro regioni hanno il consigliere diplomatico del presidente della regione, ora voglio dire, costa 150 mila euro all'anno, quella è chiaramente una poltrona distribuita a spese della collettività per dare uno stipendio a uno che ti aveva magari aiutato in campagna elettorale, insomma. No, ma interessante. Questo grande minestrone di soldi è dove c'è di tutto. Finanziamento sì. pubblico. Sì, diciamo, dove c'è tutto, c'è il giusto mantenimento di istituzioni che hanno un senso costituzionale a esistere, ma c'è anche un gran calderone nel quale c'è tutto. Il Comitato Regionale dell'Economia e del Lavoro, ma che senso ha? Cioè, non serve nemmeno il CNEL nazionale, no, che ma la, è rimasta, non lo volevano ridurre. È rimasta epocale un'intervista due giorni fa, il nostro amico ci segue spesso, oggi non poteva intervenire ma lo recupereremo i prossimi giorni, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mario Abruzzese, che ha detto: ho 18 collaboratori ma sono tutti indispensabili. Ma noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi vorrei ripartire da Andrea Vecchio per chiedergli che cosa le è rimasto da questa esperienza di 90 giorni all'interno della giunta siciliana, perché altre due dichiarazioni che ha detto dei suoi colleghi nel senso dell'Assemblea regionale siciliana, i deputati siciliani definiti da lei piccoli e meschini. Allora siamo con Pierfrancesco De Robertis del Quotidiano Nazionale, con Andrea Vecchio, che è stato 90 giorni assessore regionale in Sicilia alle infrastrutture. Vecchio, le chiedo questo: ma perché lei queste dichiarazioni, deputati meschini, i dipendenti molti sono nulla facenti, cioè che le è rimasto di questi 90 giorni all'interno della giunta lombarda? Tra quando si presenta una scelta importante che potrebbe avere qualche risvolto positivo per l'economia della Sicilia, e di contro c'è una scelta che porta un piccolo beneficio ad una casta, ad uno schieramento, ad un gruppo, si sceglie questo secondo percorso. Ecco, questo è mi ha spinto a definirli meschini, in questo senso, perché pensano sempre e continuamente alla conservazione del posto. Io dico che la campagna elettorale di un eletto inizia il minuto dopo aver saputo che è stato rieletto, un minuto dopo inizia la sua campagna elettorale. Questo è il grande problema. Ma lei la farebbe mai la politica in maniera attiva? No, mi pare di capire. No, assolutamente. Cioè, cosa no. ha visto della politica siciliana che non le è piaciuto? Le persone senza arte né parte si occupano di politica, perché non avendo impegni di lavoro, impegni di studio, impegni professionali seri, dedicano tutto il loro tempo a conquistarsi i posti nella politica. Altro che Renzi, lei è un vero rottamatore, cioè la politica dovrebbe essere tutta annullata per lei, sono tutti dei farabutti. Io ho ascoltato le dichiarazioni di Ingroia e ho visto che lo hanno bacchettato tutti quanti. Ora io ritengo che Ingroia abbia detto delle grandissime verità, cioè di cambiare la classe dirigente. La nostra politica è estremamente vecchia, la nostra politica è vecchia non solo anagraficamente, ma è vecchia anche come mentalità, come approccio. La modernizzazione non sanno cosa sia. Il problema è, io non conosco l'inglese e me ne lamento, me ne cruccio, ma la maggior parte dei nostri parlamentari non conosce l'inglese, capisce? Come possono proiettarsi in Europa, come possono ragionare in questo mondo in continua evoluzione? Sarebbe la risposta: De Roberti, ci hanno le ambasciate, ci hanno i consiglieri diplomatici, mi verrebbe così, no? Cioè, a che serve? No, vabbè, chiaramente la battuta, però la politica è vecchia, anche questo voler conservare sempre il proprio posto è riscontrabile anche nelle regioni, oppure è un po' una lotteria che se la vinci ci rimani? No, poi magari regioni c'è una classe politica intermedia, della maggior parte dei casi di gente che non ha sfondato a livello nazionale e quindi che vivacchia, sta lì, sta in consiglio regionale, si radunano una volta al mese a fare così la loro riunioncina, perché poi alla fine in regione i consigli regionali non contano quasi niente, sono gli assessori che hanno le leve vere del potere, hanno i soldi e quasi sempre sono assessori non eletti. Sono scelti direttamente dal presidente che li nomina nelle regioni più grandi, in tutte, la Sicilia, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, l'assessore regionale alla sanità, che è l'uomo non forte, fortissimo di ogni regione, che amministra il 75% dei soldi della regione, non è mai passato per il vaglio democratico, e questo oltre a essere che però si difendono i governatori dicendo deve essere un uomo di estrema fiducia, deve imprimere la linea politica della regione, siccome hanno quasi tutti hanno il listino, cioè hanno il listino bloccato, lo mettano lì e lo facciano comunque leggere, cioè voglio dire non è anche un problema di rappresentatività democratica, di trasparenza. Vorrei chiedere ad Andrea Vecchio che ne pensa di Raffaele Lombardo, che ne pensa lei del governatore uscente? Mi dà una domanda di riserva. No, è questa, poi se vuole ne faccio un'altra. È una domanda di riserva. Io sono dell'idea che l'autonomia alle regioni sia un motivo di ulteriore spreco. Cioè si è fatto la domanda di riserva da solo, vuole parlare dell'autonomia di Raffaele Lombardo, non me lo dice che pensa. Rifletta 10 secondi e me lo dica in maniera compiuta. Raffaele Lombardo è un uomo politico raffinatissimo, fa dei ragionamenti che vanno 20 anni avanti, però secondo me se li facesse nella direzione dello sviluppo sarebbe il miglior politico italiano, li fa nella direzione della conservazione. Ma mi dica, vuole mantenere le posizioni, vuole rafforzare le proprie posizioni. Ma mi tolga una curiosità, io ho sempre questo sospetto, quando lei fece questa intervista da noi, due giorni dopo Raffaele Lombardo disse: io ho un imprenditore che mi dice di licenziare le persone, gli dico ma vai a morire ammazzato, ma non è che si riferiva a lei? Mi ha detto che mi ha mandato un messaggio col telefonino e mi ha detto che non si riferiva assolutamente a me. E a chi si riferiva? Cioè, perché non si è mai però, scoperto. Però io non ho mai detto che occorre licenziare le persone. Ho detto che non occorre dare speranze false alle persone quando quelle speranze non si possono mantenere. L'altra sera sono stato invitato ad andare a parlare con dei forestali. Ah, quelli che lei ha detto, ecco, questi microfoni forse appiccano gli incendi. Mi hanno invitato in maniera provocatoria perché temevano che io non volessi andare. Invece c'è andato. Invece sono andato la mattina dopo. C'erano circa una 80 di forestali, di quelli che spengono gli incendi. C'erano due signore molto eleganti. Appena sono arrivato ho detto alle due signore: scusate, ma voi fate parte dei forestali? loro mi dicono sì, noi non prendiamo stipendio da 3 mesi. Dico, ma perdonatemi, voi due siete quelle che l'incendio lo spengono o quelle che l'incendio lo appiccano? Ma lei è un provocatore. La mia dichiarazione subito li ha spiazzati. E beh, ci mancherebbe, scusa, accusa un forestale non di sapevano appiccare. Come reagire. No, non mi faccia finire. Durante la discussione io ho detto che non avevano speranze di essere stabilizzati perché non si possono stabilizzare questa grande moltitudine di persone. Ho detto che si ingegnassero a trovarsi un altro lavoro anche utilizzando i boschi e ho detto che le statistiche nazionali dicono che l'86% degli incendi sono di origine dolosa. E loro che devo chiudere cosa le hanno detto? Il responsabile provinciale dei forestali della provincia di Catania, un ragazzo molto attento e molto puntuale, mi ha detto: lei si sbaglia, le possiamo provare appena dismentita che il 98% degli incendi sono di origine dolosa e il 2% di origine colposa. E quindi insomma il 98% doloso. Degli incendi, adesso non voglio dire che sono i forestali a procurare il 98% degli incendi, no, però ma diciamo un'altissima percentuale sì. Io avete sentito come parla Andrea Vecchio, che è stato 90 giorni a Giunta Lombardo. Lo ringrazio per essere stato con noi insieme a Pier Francesco De Robertis, di cui invito la lettura La casta invisibile delle regioni. A domani.